America 24 di Mario Platero. Welcome to all the dignitaries. I look forward to discussions with my counterparts about important political, economic and environmental issues that are facing our world. Buongiorno, benvenuti in America 24 da Ottawa, Mario Platero. Siamo di nuovo in trasferta, questa volta per darvi una preview, un'anticipazione di quello che sarà il G8 G20 che si terrà appunto in Canada fra un paio di mesi. Perché da Ottawa? Beh, intanto perché abbiamo assistito a un importante discorso del primo ministro Stephen Harper, un discorso di benvenuto a uno dei gruppi di lavoro preliminari per questo G8, un gruppo di lavoro degli imprenditori, degli industriali del gruppo dei paesi industrializzati, dunque Giappone, Stati Uniti, Canada, Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna. E il discorso di Harper è stato, come dire, alquanto ispirato. Il primo ministro ha cercato di dare un'idea che con questo G8 si dovranno stabilire dei new beginnings, ha detto, dei nuovi inizi. La ripresa è iniziata, ma a questo punto cambia completamente il modello. In effetti è vero, cambiano molti modelli dopo la crisi che abbiamo vissuto negli ultimi 18 mesi. E ha parlato ovviamente di commercio, ha parlato di ambiente, ha parlato di riforma del sistema finanziario. Piccola parentesi, tra l'altro, nel contesto della riforma del sistema finanziario, una notizia giunge invece da New York, secondo cui l'ufficio dell'Attorney General dell'Avvocatura di New York potrebbe procedere con un'inchiesta criminale, sottolineo criminale, di Goldman Sachs dopo aver ricevuto documenti e informazioni dalla Security Exchange Commission. Vedremo gli sviluppi, Goldman ovviamente resisterà. Chiusa parentesi e torniamo al G8. Ecco, G8, G20. Harper ha sottolineato molto l'aspetto del G20, è la prima volta che ci sarà un G20 formale in Canada legato al G8, la staffetta va avanti. Il primo ministro canadese ha detto che un po' tutti i paesi dovrebbero cominciare a pensare in questa nuova epoca, in questa nuova era in cui ci troviamo, al principio della sovranità illuminata, di quella sovranità cioè che considera l'economia globale non come una somma di stati individuali, ma piuttosto come un insieme già definito e formato appunto da questi 20 stati. Su questo punta il Canada, su questo sappiamo che puntano un po' tutti i governi, soprattutto gli Stati Uniti, ma non necessariamente tutti si trovano d'accordo. Qui ad Ottawa ho incontrato Emma Marcegaglia, presidente di Confindustria, che ha partecipato a questi lavori. G8 o G20? Chiediamo a Emma Marcegaglia qual è l'atmosfera di questi lavori degli industriali. Beh, l'atmosfera è un'atmosfera di dibattito interno molto forte. Devo dire che da questa riunione è uscita una decisione importante, cioè il mondo del business decide di mantenere il G8 e non di cancellare il G8 e diciamo avere solo come interlocutore il G20, perché noi pensiamo che un forte rapporto tra Europa e Stati Uniti sia ancora assolutamente strategico. Certo, l'importanza dell'Asia, della Cina e dell'India sono ovviamente chiari, ma riteniamo che stare insieme, ragionare, fare proposte insieme Stati Uniti, Europa e anche Giappone sia la scelta giusta. Quindi noi facciamo una scelta diversa rispetto a quella dei governi. Qui abbiamo anche parlato molto di trade, di commercio, l'importanza di andare avanti, fare dei passi avanti seri sul Doha Round, che è fermo da troppo tempo. Noi crediamo in mercati aperti, crediamo che la conclusione prima possibile del Doha Round sia la risposta migliore al protezionismo che, nonostante le varie dichiarazioni dei capi di governo, i vari G20, è molto presente sotto forma varia, ma un po'. Ecco, ci può dire in quale forma, perché ci sono molte forme così nascoste. Certo, no? Ci sono per esempio molte cose nei pacchetti di stimolo varati dai governi sono forme di protezionismo, dal Buy America fatto negli Stati Uniti a standard magari qualitativi e tecnici che di fatto discriminano le aziende non dello Stato, da una serie di diciamo tariffe di vario tipo. Quindi sono varie le forme, ma ci sono molto presenti e non accennano a calare. Quindi... Ecco, lei ha anche partecipato a dei lavori per creare un mercato unico fra Europa e Canada. Ecco, a che punto sono vedono questi lavori, c'è una svolta, mi sembra. Ma direi che qui si respira un grande ottimismo su questo aspetto, sia da parte europea che da parte canadese. Il Canada tradizionalmente è molto dipendente dagli Stati Uniti, sente oggi però la necessità invece di avvicinarsi più all'Europa, quindi in questi giorni proprio sono stati fatti passi in avanti e speriamo che appunto entro un anno questo accordo di libero scambio tra Canada e Unione Europea possa diventare realtà. E anche per l'Italia questo è un grande vantaggio. Il Canada è uno stato grande, è uno stato che ha tutte le materie prime, è uno stato che ha un'organizzazione industriale molto simile alla nostra, poche grandi imprese, molte filiere, insomma ci sono grandi opportunità di lavorare insieme molto di più rispetto a quello che facciamo oggi. Ecco, se dobbiamo dare un messaggio ai governi, al nostro governo, arrivando al G8, ormai siamo a un paio di mesi, sarà qui in Canada, quindi che messaggio dà al nostro governo? Qual è una delle linee guida su cui dobbiamo muoverci? Anche, immagino, la crescita, tutto questo poi porta a dinamiche di crescita e di occupazione. Certo, appunto, grande attenzione al commercio internazionale, apertura dei mercati e no protezionismo, questo esce molto forte. Nei nostri ragionamenti abbiamo anche chiesto ai governi di lavorare sulla riduzione delle spese pubbliche e non minimamente pensare, per rientrare dai debiti e dai deficit pubblici, di alzare le tasse sulle industrie e appunto cercare di spingere su un accordo globale sul clima che non sia però penalizzante per la competitività delle imprese. Ecco, il clima è un argomento che il G8 non affronta e voi stessi però avete ribadito che, indipendentemente da quello che diranno, volete andare avanti su questo. Assolutamente, noi lo riteniamo un tema fondamentale, è un driver di crescita forte. L'Europa si è data una serie di obiettivi attraverso il 20-20-20 unilaterali, si è capito che questo non funziona, bisogna arrivare nel più breve tempo possibile invece a un accordo internazionale che veda tutti i paesi, anche ovviamente Cina, Stati Uniti, che ormai sono responsabili di più del 50% delle emissioni, al tavolo, con impegni che siano impegni equivalenti tra tutti i paesi. Ottimo, grazie. Grazie a lei. That's why we have mobilized in the numbers that we have and worked out a plan that is as large and as broad sweeping as the one that's in place. La voce è di Janet Napolitano, segretario per la sicurezza nazionale, è intervenuta commentando il disastro, devo sottolineare un vero disastro, ormai derivato dalla chiazza di petrolio al largo delle coste della Louisiana. Il disastro, ha detto la Napolitano, è ormai nazionale, è un problema nazionale. Ci sarà un impatto di questa chiazza che si sta avvicinando dal Golfo del Messico verso le coste americane su ben 4 stati. E a questo punto l'America reagisce con il Dipartimento della Difesa, con la Marina. Sono già stati inviati mezzi e uomini nel Golfo del Messico per contenere questo grandissimo disastro ambientale. Il presidente Obama è intervenuto, ha detto che il costo di tutta l'operazione ricadrà sulla British Petroleum, sulla BP, la società che gestiva la piattaforma del gruppo svizzero Transocean. E il governatore della Louisiana, che sarà uno degli stati più colpiti, Bobby Jindal, ha dichiarato anche lui la guardia d'emergenza, ha mobilitato la guardia costiera. Un'ultima notizia aggiunta anche questa in tarda serata di ieri: Continental Airlines e United Airlines sono ormai vicinissime alla fusione, l'annuncio potrebbe arrivare già lunedì. In teoria la Continental ha già consentito lasciare che il quartiere generale della nuova società sia a Chicago, la sede di United, e il brand unico sarà United. Cade dunque nel consolidamento delle linee aeree americane un altro marchio storico, quello appunto della Continental Airlines. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il nuovo sito che vi porterà sulla sponda americana. Ed eccoci alla canzone del giorno. Domani è primo maggio in America, ve lo ricordo, lo saprete già, ma il primo maggio non è la festa del lavoro. Il primo maggio in America è una giornata assolutamente normale, domani è un sabato e dunque un giorno di vacanza in cui si approfitta per fare manifestazione. Dunque ci sarà un'importante manifestazione, una protesta collettiva per uno sviluppo di cui abbiamo parlato negli ultimi giorni, per la decisione dell'Arizona di passare una delle leggi più dure contro l'immigrazione illegale. Ci saranno manifestazioni contemporanee domani in 70 città americane, la pop star colombiana Shakira sarà in prima fila a Phoenix, proprio in Arizona, per protestare anche lei. E dunque di Shakira ascoltiamo l'ultimo successo, She Wolf. I've been devoting myself to you Monday to Monday and Friday to Friday. Not getting enough retribution or decent incentives to keep me at it. Starting to feel just a little abused like a coffee machine in an office. So I'm gonna go somewhere cozy to get me a lover and tell you about it. There's a she wolf in the closet. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going!